Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Tra speranze e accuse, come avete sentito, l'attesa in Europa è tutta per l'accordo con la Grecia. Già prima del vertice di domani, questa sera alle 19, a riunirsi sarà l'Eurogruppo. Il premier greco Tsipras non risparmia accuse. C'è chi l'accordo non lo vuole, dice. E allora l'attesa e il clima innanzitutto a Bruxelles. Mancano poche ore al prossimo Eurogruppo straordinario, il secondo in 48 ore dedicato alla crisi finanziaria in Grecia, e la situazione rimane molto incerta. In queste ore il governo Tsipras ha negoziato con i creditori internazionali nel tentativo di trovare un accordo che sblocchi 7,2 miliardi di euro di nuovi indispensabili prestiti ed evitare il fallimento. Secondo alcuni negoziatori la trattativa è molto difficile. Lo stesso premier Alexis Tsipras è giunto a Bruxelles per avere colloqui dell'ultimo minuto con i rappresentanti della Banca Centrale Europea Mario Draghi, del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde e della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. I toni sono accesi. La Grecia accusa i creditori di boicottare le proposte di accordo. I creditori accusano Atene di volere a tutti i costi strappare concessioni rispetto agli impegni presi a suo tempo. La palla passerà alle 19 ai ministri delle finanze della zona euro, mentre domani è già previsto da tempo un vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione. L'obiettivo è di risolvere la vicenda greca prima di allora. Se sia veramente possibile, è molto incerto. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E aspettando le decisioni sul fronte greco, in Europa torna ad inasprirsi anche il braccio di ferro sull'immigrazione. Le tensioni dal sud si spostano a nord, da una parte Budapest che sospende le regole di Dublino, dall'altra la Gran Bretagna che ha rafforzato oggi i controlli contro l'immigrazione clandestina al porto di Dover, dopo che ieri i migranti accampati sulla sponda francese della Manica a Calais hanno cercato di approfittare di uno sciopero per salire sui camion all'ingresso dell'Eurotunnel e raggiungere così il Regno Unito. Del tema si dovrebbe discutere venerdì, ma potrebbero arrivare misure inedite. Detenzione e coercizione dei migranti da 6 a 18 mesi nell'attesa che vengano identificati in maniera certa e poi, nel caso, rimpatriati. Questo contiene la bozza dei documenti preparati per il summit al via domani, anticipati ieri dal Guardian. I leader europei hanno deciso di creare zone di confine strutturate negli stati membri di frontiera come Malta, Italia e Grecia, al fine di identificare i migranti. Nella bozza si legge: la Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre modifiche al regolamento di Frontex per rafforzare il ruolo dei rimpatri in modo così da poterle avviare. Proprio dei rimpatri si era lamentato il commissario europeo per le politiche migratorie Dimitris Avramopoulos in una lettera inviata all'inizio del mese ai ministri dell'interno. Il sistema europeo di rimpatrio dei migranti irregolari, ha detto, non è sufficientemente veloce ed efficace. Sono pronto a valutare tutte le opzioni. Avramopoulos aveva denunciato come venisse espulso poco meno del 40% dei migranti. Per garantire che i migranti irregolari vengano effettivamente rimpatriati, si dovrebbe ricorrere alla detenzione come misura legittima da ultima istanza. Così si legge nella bozza anticipata dal Guardian. La detenzione dovrebbe durare 6 mesi, ma anche 18 mesi nei casi di non cooperazione. Non appare più un caso, quindi, che il premier italiano Renzi proprio oggi abbia detto: non possiamo più avere paura del concetto di rimpatrio. Delle quote nelle anticipazioni diffuse dal Guardian invece non si parla. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parlando d'altro, inizia anche la corsa tra 450 comuni italiani per diventare la città europea del vino 2016. Il 2016 sarà la volta dell'Italia, ha già visto assegnare il titolo a Marsala nel 2013, la proclamazione a novembre. Questa un'ultima parentesi europea, per il momento ci fermiamo qui, ma torna Europa 24, come sempre, effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.